canale 10, canale 10 da Houston. Attenzione, Houston, Houston chiama canale 10, cambio. Attenzione, attenzione, attenzione, Houston, Houston chiama canale 10, cambio. Avanti, buonasera. Ciao, Marco Scorpion sono. Chi sei? Hai copiato? Ciao, buonasera, sono Marco Scorpion, da Sassari. Tu chi sei? Dove ti trovi? Scusa, ma non ho capito, puoi ripetere? Gaetano? Confermi Gaetano, avanti. Ok, Gaetano, c'è un po' di noise, 53-54. Dove ti trovi tu? Mari, confermi? QSL, allora, segnale di propagazione, molto bene. Ok, la modulazione com'è la mia? Attenzione, Scorpio, senti? Ciao, buonasera, fondo scala. Buonasera, Scorpio, stazione Uranio qua dalla comunità di Ultimo, buonasera. Sì. Perfetto, tu qua stai arrivando un segnale di 8 e una bella radio di 5, spettacolarissima, è bellissima. Complimenti, a te cambio, vedrai come mi ricevi a me sia di segnale che di radio K, a te il cambio con la buonasera. Ehi Ura, ciao, buonasera e ben risentito, ma non so se ti ricordi, ma il mio nominativo risale ai tempi passati, ai primi degli anni 70, ho riconosciuto la tua emissione. Il segnale è forte, sto usando una vecchia radio, proprio di quel periodo, Urania. L'antenna invece è un'antenna più recente che ho messo un paio d'anni fa, una Sirio, non mi ricordo come si chiama, 827, 857, comunque la Sirio è quella che ha l'anello di materiale plastico per l'antifischio, diciamo. Tutto lì, segnale per te è fortissimo, sei voi, intorno a 9 più 10, 9 più 15, segnale forte, la radio K, devo dire perfettamente Urania. Ok, ti ringrazio. Ok, sì, sicuramente, infatti, Scorpio non era non mi luogo perché il tuo sentito è passato. Ok, io sono 2 giorni e 3 quarti, sono a 40 anni, quindi già mi ricordo, ok, anche se fare il tuo tempo fa. Perfetto, tu stai arrivando benissimo, vecchi apparecchi, che tipo di apparecchio io sto usando? Un Midland modello 2001 XK, abbinato con un microfono MPT4, ok, a te il cambio. QSL, qua invece sto impiegando un Royce da base negli anni 70 con cosa ti dica, col microfono su origine da palmo. Niente di che, una radio vecchiotta che funziona comunque ancora molto bene, ogni tanto la accendo, la faccio funzionare, di queste radio d'epoca, di quel periodo ne ho un pochino, ogni tanto, così come stasera che l'ho ricollegata e niente, l'ho fatta scaldare già tante ore e adesso un air, vedo che si sta comportando bene, così anche da come mi ci trattiene qui, l'antenna non è a, funziona molto bene questa antenna, ne sono entusiasta dopo aver ormai dovuto sostituire la Mantova 1 che aveva i suoi anni, la seconda Mantova 1. E niente, fra le antenne ho visto questa che mi è sembrata insomma solida e fatta in maniera decente e l'ho installata. Insomma, sembra che va vada bene, dai. Non ho possibilità di fare confronti perché ovviamente prima c'era una Mantova e poi c'è questa, ma così un po' anche da quello che ho letto in internet, oggi ormai è comodissima questa cosa, i forum e cose varie, ne parlano molto bene. Tu che antenna stai utilizzando? Ok, io sto usando una LEM Super 16, 16 elementi K, LEM Super 16. Che ha fatto la Fox un poco più di 3 mesi, quella nuova, con bobina in alluminio, tipo la Mantova, e via dicendo. Solo questa qua, la bobina è più alta di quella della Mantova, la quella della Mantova è più alta, questa si pare 6 o 7 chiocciole, una cosa del genere. Ok, tutto qua, l'M Super 16, la testa mi pare che sia del filo di 8 metri, 8 metri 50, una cosa del genere. K100, ho a te il cambio. QSL, sì, avevo visto anche, valutato anche la possibilità di montare quell'antenna. Niente, poi però, ma non perché c'era un motivo differente da un altro, ma questo è un po' l'attacco di fissaggio sulla bobina, mi sembrava valido. Avevo visto anche un po' di modifiche che vengono fatte addirittura per utilizzare elevate potenze, ma non era il caso, per fare attività di altro tipo vado da altre parti. Ok, benissimo, grazie del collegamento, di averti rincontrato, buon divertimento ancora qui sulla banda cittadina. Ciao Uranio 73 da Marco Scorpio. Prego. Sì, Marco, dimmi che differenza non si adesso, perché qui la sta usando qualcosa, stoppa, adesso la stoppa, le staccate, quindi un po' come si può rifare. Comunque, soluzioni cordiali, con sentimenti di serata e sentiamo le soluzioni. Ok, grazie delle mie chiacchiere e perfetto. Grazie per il cambio, per diciamo, la conferma. Sì, questa sera c'è stato anche un break e sei sceso di 10 dB circa, ma 10 dB orientativamente, perché capisci che questi strumenti sono così indicativi, però c'è stata una perdita di intensità importante, ma la qualità della modulazione è rimasta pressoché invariata, perciò l'amplificatore funziona bene, non altera minimamente l'emissione. Niente, se non guardavo lo strumento non mi sarei neanche accorto, perché la pressione della voce è rimasta pressoché invariata. Benissimo, allora prima di andare via facciamo entrare avanti il break e vediamo un po' di chi si tratta e dopodiché passo in QRX ascolto. Avanti con la buonasera, Marco Scorpio in QSO con Urani. Marco. Ciao Marco, ben sentito, no? Ti ho sentito 2 minutini, l'ho ascoltato, ho visto che c'hai un segnalone e c'è anche l'amico Uranio di Osilo, li ascolto tu perfettamente. Tu Marco sei 9 più 30, non so cosa hai fatto di bello, e Uranio il passaggio che ho passato l'ascoltato superava il 9.10, poi c'è il 9.5. Ok, ti rilancio il mic, Marco. Scorpio, senti, Piero Specchia, Brindisi, Scorpio. Sì, Brindisi, 9 più 20, ciao, buonasera, grazie di essere passato qua a salutare su Canale 10 della città di Sassari. Roberto, tu arrivi fortissimo, come sempre, modulazione OK. Niente di che, Robè, ho collegato il Royce da base, che era da parecchio spento, per farlo funzionare ho lasciato praticamente da stamattina che era acceso e adesso così ho voluto fare due prove per vedere come va. Il microfono è il suo microfono Royce da Palma. Allora ti rilancio ancora l'antenna, magari vedi un po' se di far entrare l'amico di Brindisi che ha bussato. Ancora un saluto, un ciao ciao all'amico di Brindisi qui da Sassari, frazione Marco Scorpio. Brindisi, K. 9 più 20, come posso dire di non ascoltarti? 9 più 20. Riprendi Robè, fai girare, prova a chiamarlo tu se ancora. Vedo che c'è una buona propagazione questo pomeriggio. Sì, avanti l'amico di Brindisi, ho sentito 9.10 da parte mia, Radio 5, è bella amplificata. E qua Roberto, avanti se copi Sassari. Positivo, era solo per un controllo radio. Piero, città di Brindisi, Cacchio. Specchietto, vi saluta, cambio. Benissimo il passaggio, Piero, 9 più 20 questo passaggio, propagazione probabilmente è molto favorevole. C'è anche un amico qua di Uslo, vicino a Sassari, avanti, Uranio, per Piero da Brindisi. Io qui, buonasera Piero da Brindisi, allora non so se i colpi, stazione Uranio o da Uslo, provincia di Sassari, a te l'amico di Brindisi, cambio. Attenzione, Piero, hai copiato Uranio da Sassari che ci ha chiamato Roberto Quadrato. Propagazione va e viene, perciò non sempre magari riesce a ricevere i nostri QTC. Ok, Roberto, dimmi un po' come va di modulazione perciò questa radio. La tua voce, bella, chiara, forte e chiara. Ma una domanda, ma dove sei? Su a casa tua o in ufficio, diciamo, vicino a me? No, a casa, Roberto. A casa l'antenna è la Sirio, non mi ricordo se 857 o 827, comunque quella che ha l'anello di materiale plastico che avevo montato un paio d'anni fa quando ho sostituito la Mantova, che ormai era capuzzo. No, segnale 9 più 30, ma c'hai un aiutino o sei pulito? Ho sempre quel piccolo amplificatorino della Midland, il 747. Ah ok, vabbè, no, 9 più 30 è tantissimo, infatti ho detto cavolo, pensavo fosse qua vicino a me, c'era il segnale molto molto forte. Dimmi come ti arrivo io dalle tue parti. Qua questo strumento da oltre fra il più 10 e il più 30, guarda, così è con e così è senza, passaggio senza e così è così attaccato, vediamo un po'. Per di 10, da 9,20 passi a 9,30, hai presente lo superi, sei a 9,20 e superi 9,30 attaccato. Attenzione al canale 10, attenzione al canale 10, ascoltate mezza valvola, coordinate Lecce, passo. Sì, avanti mezza valvola da Lecce, qua operatore Roberto in compagnia di Marco e Durano da Usilo, città di Sassari che ti cordializza, avanti. Positivo solo per un controllo radio. C'è un po' di sovrappopolamento, dai, sovramodulazione, comunque ti ascolto bene, 9 più 10, radio 5, ti rilancio Marco, l'amico qua, ascolto, avanti a te di nuovo Marco. Sì, a me mi ha ricevuto, l'avevo dato prima, ero già in procinto di QRT, saluto Lecce, l'amico di Lecce, l'amico di Brindisi, insomma, un po' chi sta ascoltando qua, dal nord della Sardegna, stazione Marco Scorpion. Vai Uranio con i saluti per gli amici e ascolto il passaggio e poi QRT. Ciao, buona serata e buona domenica a tutti. Ok, perfetto. Comunque con la Sirio ce l'avevo anch'io, qualche tempo fa, la lavorazione solo che si è rotta. Ok, quindi se c'è quell'antenna lì tu ti puoi ancora il filo, se è molto ventoso, semplicemente se hai, diciamo, se tocca apparecchio il vento lì, bisogna essere ancorato, perché la mia l'avevo lasciata senza ancorata, lo filo è... Ciao Marco! Dare problemi, rotta qua, è scarsa ricezione, ho messo l'antenna, infatti l'ho controllata e mi era lì. Va bene, Marco, sentiamo l'ora, buon proseguimento ancora di serata e sentiamo, salutone cordiale. Ok, perfetto, riprendi Roberto. Sì, ciao Marco, ben sentito, dai, fatti sentire male più spesso e poi se capiti dalle mie zone ci facciamo una bella chiacchierata. Ok, di nuovo c'è stato un break, avanti che voleva entrare, qualcuno ho sentito, ha chiamato, lasciamo un attimino di bianco, vediamo chi vuole entrare, qua città di Sassari, operatore Roberto, avanti che vuole entrare. Attenzione, sono Sarda, ascolti Salvatore sulla provincia Catania, buonasera. Sì, ti ascolto, non ho capito il tuo nome, comunque qua Roberto ti cordializza, buon pomeriggio, avanti di nuovo. Sì, questa è città di Sassari, sei in compagnia mia, è di Uranio da Usilo, un paesino vicino qua a Sassari, nord della Sardegna. Avanti di nuovo a te, mi dici da che zona stai modulando. Salvatore sulla provincia di Catania, saluta. Ok, avanti di nuovo a te Uranio, se ti ascolta l'amico di Salvatore. Ah, ciao, grazie, furi, faccio fatica qua da vi lascio in questo locale, saluto per tutti gli amici di Sola Sarda, salutatemi a Gigi Vulcano, Salvatore saluta. Sì, ciao Salvatore, ben sentito, ti ascolto perfettamente, superi 9,10 di segnale e la radio super 5, perfetta. Ok, vediamo un po' se c'è qualche altro che vuole entrare su questo canale, avanti di nuovo. Uranio, ci sei ancora? Sì, ci sono ancora. Roberto, vedi un po' se hai notato qualche differenza, perché ho cambiato il microfono. Ovviamente adesso usando quello che c'era prima, infatti abbinato, dai. lo 1, sto usando il, come al solito, lavoro perché sotto appena sto alla, diciamo allo 1. Ok, mi dovete dire per gentilezza se hai notato qualcosa come modulazione K, come mi senti adesso di radio, a te il cambio di nuovo. No, ti ascolto bene, sinceramente non ho fatto caso con prima, ero un po' distratto probabilmente, ti ascolto bene, segnale 9 più 10 abbondante e la radio è chiara, non ho notato se era più alta o più bassa dell'altra, dovresti fare un confronto più ravvicinato così me ne rendo conto. No, vabbè, non è importante, diciamo attacca e riattacca di nuovo. Ok, no. Siccome questo microfono l'ho preso a poco, il mezzo più 4 quindi lo stavo provando per vedere come andava a fare che già vada benissimo, su, ok, perfetto, dai. Roger, ma non c'è nessuno per qua solo questa preparazione, boh, comunque, ottima preparazione. Roberto, comunque, Scorpions, Roberto, Scorpions, sì, arriva benissimo qua, una bella radio. Ok, c'è di nuovo il cambio. No, no, Marco c'ha una bellissima posizione, c'ha belle antenne, per cui non ci sono problemi, è molto più in alto di me, probabilmente adesso non lo so esattamente come altezza, ma a occhio dovrebbe essere un po' più alto di me, però è tutto libero, lui c'ha tutto davanti, il mare, vede tutto, tutta la costa, c'è un bel segnale, poi Osilo, anch'io ce l'ho di fronte, per cui dovrei arrivare anche io abbastanza bene, se confermi dammi un controllo anche a me. Tu, Santiago, Radio 5, perfetto, ok, benissimo, benissimo. La posizione di Scorpio in quale zona di terra terra? La zona alta del monte, parte alta del monte, e, diciamo forse più favorevole verso di te, lui ti arrivava più alto di me, di come segnale. No, no, lo stesso, molto lo stesso. Sì, sì, quello è una bellissima zona, la conosco, beh, ovviamente si vede che c'è la posizione, diciamo, aperta per qua, per dove sono io, per San Sierra. Ok, perfetto. Bene, bene, anche tu non scherzi, sta uscendo benissimo, ok. Perfetto, attenta. Ok, adesso c'è una chiamata generale qua sul canale 10 e c'era qualcuno poco fa che voleva entrare e mi sembrava un segnale conosciuto, però poi l'ho rilanciato, non ha parlato. Avanti di nuovo, chi vuole entrare sul 10, vediamo un po', se no riprendi tu. Ci sono segnali bassini di propagazione, diciamo Santiago 8, qua sta arrivando qualcuno, però non riesco a capire quello che dice. Avanti di nuovo a te. Ok, poca trafficata la 27 stasera, ok, io ho già un paio, più di un paio di mesi. Come senza controllare niente qua, stasera vediamo un po', ho acceso anche per controllare un alimentatore che ho preso, devo fare che si funzionano bene, un alimentatore da 50 ampere della ZSG, ok, perfetto, modello 1250, ok, dell'alimentatore. Perfetto, anche il cambio. Sì, l'alimentatore è fondamentale, nella radio inutile metterne uno tirato al collo, adesso ci sono questi switching che dichiarano potenze esagerate, però li tirano al collo, cioè dicono 20 ampere poi effettivi in uso continuativo sono 10, inutile che ti tiri 20 ampere ventilato e lo stai sovraccaricando, sempre bene, è bene avere riserva di corrente, così non si sbaglia, anche il mio ne ho uno molto grosso da 60 ampere, sempre a trasformatore, però ne può regare anche a 120 volendo, dandogli piena potenza, l'hanno limitato a 60 ampere in modo che non si verrà sovraccarichi, non ha ventola né niente. Questo ZG è a trasformatore, immagino, no? Sì, sì, a trasformatore. Io ce l'ho avuto il switch, ce l'avevo ventilato. È durato un po', un giorno c'è stato un blackout qua, vabbè, sono passati giorni e giorni, vado a accendere la stazione, puff, l'alimentatore sta fisso, rotto, lo buttiamo a qui, infatti ho portato questo tecnico qua, per fare un po' il calcino, non ho saputo fare un accidente, ci ha messo dei cerepetti nuovi, non so che cavolo ha fatto, però l'alimentatore non funziona, quindi adesso me lo devo ritirare, niente, se capita lo posso da qualche un altro, almeno faccio controllare, se si può riparare, ma penso di sì. Se non ci sono i componenti su in quell'alimentatore, non funziona niente, non so qua metto componenti del campo, ma non non accende più, ok, è negativo, va bene, cambio. Vabbè, lo switching finché funziona va tutto bene, ma basta una scarica atmosferica, un temporale lontano, tac, è salda. È molto critico come alimentatore, sono stabili come tensione, eccetera, però sono molto critici, mentre quelli, questo appena appena richiede un po' di potenza oltre i limiti di corso, di manuale, lo metti a sedere e si scioglie, mentre quello trasformatore al limite scalda un pochettino e può intervenire il fusibile e basta. Molto più semplice da riparare, non c'è niente, c'è un circuitino semplicissimo con il trasformatore. C'è da dire che bisogna stare attenti, perché se parte qualche componente, magari se c'è qualche apparato ti arriva una tensione più alta e lui continua a erogare tensione, mentre con quelli switching si rompono e finisce tutto lì. L'unico problema è quello con il trasformatore, però come robustezza non c'è confronto. Poi si è costruito bene anche come Runzi rientri, li fa 10 a 0 qualcosa, quelli switching. Per l'appunto sì, il switching pesava, cosa pesava? Se pesava 1 kg e mezzo faceva troppo, ma questo qua mi pare che pesi una centinaia di kg o anche di più pure, perché è pesantissimo, costa un sacco di soldi, ok, mi pare che mi costasse 600 euro, vedi tu, a te i cazzi. Ma quello con due strumenti, perché ne faceva uno così grosso la ZG anni fa, che poi non fa più, con due strumenti. Sì, con due strumenti. Sì, quello era il topo di gamma della ZG. Se lo costruisci adesso con l'alimentatore non ti bastano 500 euro per farlo, come il CEP che ho io. Io ho il CEP che sono, non per vantare, sono i migliori costruiti in Italia, sono venduti in tutto il mondo, fanno alimentatori da una vita, se li fanno pagare, però se tu vedi la cura costruttiva, i dissipatori sono da paura. Questo non ha vento, diretto con tutta quella eroghi, lo puoi tenere 24 ore su 24 acceso e non succede niente, al contrario di molti apparecchietti, giocattolini, compresi i ZG, quelli commerciali, diciamo quelli economici, appena scaldano appena poi ce li butti via, non riescono più a darti la corrente che ti davano all'inizio. Sì, vabbè, sono alimentatorini così del cavolo sono, ma questo è massiccio, per l'appunto c'è anche un bel dissipatore abbastanza grosso dietro, diciamo un bel apparecchio, ok, non peraltro costa un sacco di soldi, vabbè, niente, tutto qua, io sto dando qua una piccola potenza, poca roba, qua mi segna 10 watt, poi non capisco come si deve, questa roba qua della CTE, ok, niente, a te il cambio. Una domanda, come mai tu mi arrivi Santiago 9+10 e lo superi e io ti arrivo Santiago 8? Questo non riesco a capire, ma tu ti stai spingendo tanto di potenza? Sì, sto usando qualcosetta qua, poca roba, lo strumento qua mi segna il wattometro 10 watt. Se ho qua due strumenti, però non riesco a capire perché. Niente, allora sto facendo il tasto e vediamo un po' quanto dà. Ok, più o meno, dai, attenzione. Chi è avanti che chiama? Avanti sul canale 10, che chiama? Buonasera, ti saluti Codiazza di Novoli, provincia di Lecce, Super Mario Modulo a cambio. Sì, buonasera Mario, in compagnia qua di Roberto da questa parte, e poi c'è l'amico Francesco Fiosio, città di Sassari la mia, e lui è un comune abbastanza vicino a 10-12 km da Sassari, e il segnale tuo è 9+10, la radio 5 è molto amplificata, mi dai anche a me un controllo se riesci a ascoltarmi, avanti. Buonasera ai signori della bella isola galleggiante, dai, qua segnale 8 nodo oscillante con una radio super gappa. Ok, adesso ti rilancio l'amico Francesco, avanti Francesco per l'amico di Lecce, credo. Attenzione, l'amico Lecce si è esposto da un radio qua dalla provincia di Sassari, Osino, a te il cambio, Lecce. Buonasera Francesco, la radio Urania, dai, ascolto anche te, un segnale un pochino più basso, ma il resto è tutto io. Ragazzi, con le scuse ero entrato in punta di piedi solo per i saluti. Mi ha salutato, sì, Grazie Mario, ben sentito per la primina. Anche a te, ok, ti ripeto il segnale 9.15, questo passaggio è una radio molto forte amplificata, Super 5, non so che apparato sta utilizzando, mi immagino dalla modulazione quei modulatori col tipo Alan 48, se mi vuoi confermare. Sì, sì, siamo qua con 48, no, parcato, è un popolare, dai. Abbiamo acceso qua giusto per dare un niente. Va benissimo, sta arrivando alla grande, quasi 9.20 questo passaggio, propagazione molto favorevole. Di nuovo a te Uranio e per il saluto all'amico Super Mario da Lecce. Avanti a te Uranio. Ok, Super Mario dalla provincia di Lecce, allora sono Tony Cordiali e buon proseguimento di serata, eh? Ok, buon fine domenica, ci sentiamo nel prossimo. Ciao ciao, allora Roberto, adesso sto facendo lì, ho visto forse hai notato qualcosa in merito da prima, ok, a Italia. Allora 9 più 5 il segnale normale, 9 più 15 il segnale aiutato. Insomma, ma se stai funzionando allora, quindi va bene, dai. Già va bene, perfetto. Niente, tutto qua. Gli allenatori. I buoni portano sempre questa questione, non c'è da fare. Gatta. Ah, e tu stanno a bene, ancora meglio. Aspetta, bellissima, mi sta dicendo che è ventilato, così è. Non ho capito, scusa. Adesso mi stavi che hai detto che tu l'allenatore che stai dando tu la stata bene, è ventilato. No, no, assolutamente no, no, no. Questo, ripeto, è un alimentatore che sta lavorando a metà potenza, da 60 ampere dichiarati continui, però ne può dare anche 120. Lo stanno facendo lavorare a metà delle potenzialità. Quei transistor possono arrivare a 120 ampere continui, però lo stanno facendo lavorare a 60 ampere, per cui non c'è bisogno né di vento né di niente. Bello massiccio, pesa più di 20 kg, questo apparecchio è costruito dalla CEP, specializzata in alimentatori, fa solo alimentatori, da una vita, costruisce apparecchi proprio professionali per uso anche medicale eccetera eccetera, oltre che per altri tipi di apparecchiatura. Ho capito, perfetto, va benissimo lo stesso allora, eh. Ok, vabbè, da quanto pare la preparazione del tuo qua della zona Sierra Sierra Cappa, toccante è stato uno dalla provincia di Toscana, arrivava benissimo lo stesso la Cappa, tant'è lo stesso le prova quello, a bomba, ok, ottima propagazione, però come tutta la propagazione fallisce subito, non dura molto, vabbè, comunque l'importante è fare qualche collegamento in distanza, ok, perfetto. Allora, Roberto, ti saluto, ti ringrazio per le due chiacchiere perché è stato il mio corretto. Ok. Salutone cordiale, ci siamo nel prossimo live, buon proseguimento di serata, a prossima domenica e salutone al tuo rispettivo VR familiare. Ciao ciao, la famiglia è il corretto, ascolta il tuo operario e sto scrivendo. Ciao, ciao. Ciao. Anche io stavo per dire, una domanda, dove l'hai beccato quell'alimentatore tu della ZG? Da Milano, con coordinazione da Pizzaro. Ah, ma quello l'hai comprato nuovo questo? Nuovo di pasta. Ah no, pensavo fosse un alimentatore che avessi trovato magari qualche occasione usato, perché quelli costano un sacco di soldi quegli alimentatori. Era il top di gamma della, se stiamo parlando di quello che dico io, della ZG, è un apparecchio molto molto ben costruito. Non c'è dubbio, pesa un sacco, pesa parecchio, guarda, io penso che forse anche un 35, oh, comunque pesa tutto, guarda, pesante. Va bene, dai, ti saluto anche se interrompo perché devo fare cosa. Buon tutto, buon proseguo di serata, anche io adesso devo uscire, ci sentiamo alle prossime. Ciao Francesco, quando vuoi, se coincide sarà un piacere ascoltarti. Ciao ciao. Ciao Roberto, grazie di averti essere ancora, buonasera, saluto un cordiale, ciao ciao, anche per me è il cuore di ciao. Andemmo, yes.